Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Il 14 ottobre del 2009 è un giorno come tanti, nel cuore di Londra. La zona intorno a Piccadilly Circus è piena di inglesi che camminano veloci con in mano un caffè fumante da bere in fretta prima del prossimo appuntamento. I turisti, cartina alla mano, si guardano intorno in cerca della direzione che hanno segnato sulla mappa. Dei ragazzi in divisa appena usciti da scuola ridono e si spintonano un po' senza far troppo caso alla pioggia che comincia a scendere. Beh, è pur sempre Londra, in fondo ci sono abituati. La libreria Waterstone è una delle più grandi d'Europa. 5 piani di volumi tra cui trovare pezzi anche rari. E un bar, il Fifth View Cocktail Bar, perfetto per ammirare un bel panorama della città. Ti metti lì, comodo, in poltrona e vedi uno scorcio che neanche dalla ruota panoramica puoi ammirare. Naturale che qui si organizzino anche incontri con gli scrittori. Qualche volta basta mettere fuori la data dell'evento e si registra immediatamente il tutto esaurito, neanche fosse un concerto. È quello che sta succedendo oggi. Sin dalle prime ore del mattino sul marciapiede ha cominciato a formarsi una coda che via via è diventata sempre più lunga. Ad aspettare, con un libro in mano pronto ad essere autografato, persone di tutte le età, entusiaste all'idea di conoscere il loro mito che sta arrivando per presentare la sua biografia dal titolo Dreams. Il loro mito si chiama Leona Lewis. Sono scesa dal taxi e wow, non mi aspettavo ci fosse così tanta gente. Non sapevo neanche se il mio libro sarebbe piaciuto, figuriamoci aspettarsi un calore del genere. Giuro, mi sono venuti i brividi. Leona Lewis, vincitrice della terza edizione di X Factor nella sua versione inglese, ha raggiunto in fretta una fama planetaria. Prima nelle classifiche di ben 34 paesi, tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Australia e Giappone, con la sua hit Bleeding Love. Ha debuttato vendendo, solo del primo album, qualcosa come 8 milioni di copie. In un periodo in cui molti sostengono la rovina del mercato discografico, non è niente male. Spirit, questo è il titolo, è uno dei dischi d'esordio di maggior successo di sempre e le ha fruttato molte nomination a premi importanti quali Brit Award, Grammy Award, Mobo Award, MTV Europe Music Award, Teen Choice Award e il Top New Artist di Billboard Magazine. Oggi Leona Lewis è considerata a pieno titolo una delle voci più belle della musica internazionale. Se me lo aspettavo... Ma come fai ad aspettartelo? Come fai anche solo a immaginare una cosa del genere? Io mi sono sempre sentita una ragazza normale e in pochissimo tempo sono diventata la prova vivente che le favole esistono. Spero che grazie a quello che è successo a me, molti ragazzi possano continuare a credere nei loro sogni. Perché i sogni qualche volta si realizzano. È per questo che ho intitolato la mia biografia Dreams. Già, Dreams, la sua biografia. Eravamo rimasti all'arrivo di Leona alla libreria londinese, dove sta per presentarla. In quella giornata come tante, dicevamo, la Lewis arriva in taxi e ad accoglierla ci sono centinaia di fan. Il suo agente le ha segnato in agenda qualche ora per firmare autografi e lei non vede l'ora. Le è sempre piaciuto il contatto con la gente. È empatica, ha un approccio molto umile. Non è un caso se tutto il pubblico l'ha votata nella notte della sua vittoria a X Factor, bravura a parte. Insomma, lei e sedute. Le sfilano davanti i ragazzi e ragazze con il libro in mano, lei firma qualche foto e così via, finché non succede l'imprevedibile. Un giovane di 29 anni, in fila da 5 ore, appena arrivato a lei, le tira un pugno in faccia. Proprio così, senza apparente spiegazione, se non quella dell'attesa sconsiderata che però, diciamocelo, non è certo colpa di Leona. Lei, terrorizzata e stordita dal dolore, balbetta qualcosa scoppiando in lacrime. Si allontana turbata, qualcuno cerca di fermarla. Il suo fidanzato storico, Lual Chama, acciuffa lo psicopatico e lo consegna ai poliziotti che nel frattempo sono accorsi sul posto. Ero confusa, non capivo cos'era successo. Com'era arrivato a picchiarmi? Mi facevo mille domande, mentre mi faceva male tutto. Come se avessi avuto un martello pneumatico nella testa. La star viene soccorsa e medicata in una clinica di Harley Street. Nessun danno è il responso, ma una grande paura resta, tanto che Leona disdice gli impegni promozionali per un po' di tempo. Intanto viene rivelata l'identità dell'aggressore. Si chiama Peter Kowalczyk, è londinese, ha disturbi psichici e si è scaraventato contro la Lewis per colpa dell'invidia. Anche lui aveva partecipato più volte ai provini di X Factor versione inglese, ma non l'hanno mai preso. Perché lei sì? Perché una ragazza come tante adesso firma autografi in tutto il mondo? Perché da sconosciuta è arrivata a diventare una delle 100 donne più influenti del Regno Unito? Oggi, ai Magnifici Destini, vogliamo raccontarvi una storia che ha il sapore della favola, la storia che ha per protagonista Leona Lewis. Islington è un importante quartiere di Londra, ricco di bar, antichi pub e belle case. La sera e alla domenica la zona è vivissima, piena di studenti, professionisti in cerca di relax e famiglie con bambini. Le sue origini sono antichissime. Di Islington si parla già nell'undicesimo secolo, quando era un complesso di piccole corti feudali. Poi, a partire dal 600, arriva l'alta borghesia, la prima in tutta la città che può usufruire degli autobus, trainati da cavalli, è vero, ma pur sempre innovativi mezzi di trasporto passeggeri. Chissà se è un caso o un segno del destino che Leona Lewis sia nata proprio qui, in un quartiere dove l'intrattenimento sociale e culturale è una tradizione di lunga data. Già nel XVIII secolo piccoli locali e pub organizzavano serate musicali, giochi ed eventi all'aperto. I diversi circoli culturali che scaturirono da questa atmosfera diedero poi vita a teatri, gallerie d'arte e centri musicali. Per esempio il Collins Music Hall o il famoso King's Head Theatre nella taverna omonima, il primo pub teatro dell'intero Regno Unito. Insomma, fin dal momento in cui viene alla luce nell'85, Leona Lewis respira i profumi dello spettacolo camminando per le vie intorno a casa. Me la ricordo ancora la prima volta che mi hanno portato al King's Head Theatre. Sono rimasta a bocca aperta. Ero piccola, ma chissà cosa avrei dato per salire su quel palcoscenico. Il velluto rosso, i posti per il pubblico. È stata una grande emozione. Ricordo che avevo chiesto a mia madre di portarmici ancora. E lei mi aveva accontentato. Nel DNA di Leona Lewis ci sono diverse tracce di contaminazioni. Papà, Orol Josiah, che tutti chiamano semplicemente Joe, è originario della Guyana, mentre la mamma, Maria, è italo-gallese. Di colore lui, bianchissima lei, mulatta e bellissima Leona. Normale che fin da piccola sia abituata a mescolare le cose, a partire dalla cucina. Per me era normale mangiare la pasta e poi magari il bluff. Sì, lo so, non è molto conosciuto. Il bluff è un piatto tipico della Guyana. Papà lo faceva sempre. È un brodo che si fa con cipolle, aglio, sedano e basilico. Papà metteva anche le spezie dappertutto. La mamma si è abituata. Quella della Lewis è un'infanzia felice, con una costante colonna sonora. Canta sempre Leona, in casa, per strada, a scuola. Quando un ritornello le rimane in testa o quando ascolta qualcosa a ripetizione per impararne le parole, poi si mette davanti allo specchio e canta ad alta voce, improvvisandosi pop star. La musica era la mia vita, lo è sempre stata. Le mie amiche dicevano che volevano fare le ballerine, i maschi volevano fare tutti i poliziotti, io volevo solo salire sul palco e cantare. Forte del sostegno dei suoi genitori, che la vedono decisa e determinata, Leona inizia presto a studiare musica. Prima presso la Sylvia Young Theater School, poi presso l'Italiana Conti Academy, infine presso la Brit School, dove studiano anche altre future star della musica britannica come Amy Winehouse, voce roca e disperazione, Adele, la rivincita del vintage, Kate Nash, indie con la chitarra, e Katie Melua, la cantautrice georgiana naturalizzata britannica dalla regina in persona. Io e Katie eravamo nella stessa classe quando facevamo la Brit School. Curioso, eh? Lei è una cantante incredibile, un vero talento. Eravamo molto amiche e ora però non siamo più in contatto. Succede spesso dopo aver finito la scuola. Certo, quando capita che ci incontriamo a qualche evento o a qualche premiazione, ci salutiamo ancora con molto affetto. Abbiamo passato mesi fianco a fianco. Gentile, rispettosa, studiosa, senza troppi grilli per la testa. È questo il ritratto di Leona Lewis adolescente. Ha un maestro che le insegna intonazione, si allena ogni giorno con la chitarra e il piano, qualche volta si diverte a provare uno strumento mai suonato prima, così, tanto per vedere l'effetto che fa. A 12 anni, davvero talento precoce, scrive la sua prima canzone. Niente di straordinario, per carità, ma non è certo da tutti essere chiamata così giovane a cantare nei pub del quartiere. I patti sono chiari. Alle 11 si stacca tutto, mamma e papà al seguito, niente alcolici. Negli stessi pub dove avevo cominciato a esibirmi da ragazzina, poi ho fatto la cameriera. Non lo considero un passo indietro, in fondo cantare lì non rappresentava nulla. È che a 12 anni era ancora un gioco. Poi la musica è diventata sempre di più la mia ragione di vita e dovevo mantenermi in qualche modo mentre portavo avanti il mio sogno. I miei genitori hanno fatto tanto per me. Era giusto che ci provassi da sola. Adesso sono molto orgogliosa di aver servito ai tavoli perché mi guardo indietro e vedo, beh, tutta la forza che ci ho messo per arrivare fin dove sono arrivata. Mese dopo mese, anno dopo anno, Leona scrive e compone, suona la chitarra da sola nella sua stanza e qualche volta si esibisce ancora nei pub, più per divertirsi che per i due soldi che le offrono. Bussa a diverse case discografiche, ma nessuno sembra essere interessato a lei. La concorrenza in giro, tra l'altro, è spietata. Lei è bravissima, bella, motivata, grintosa, ma sembra che tutto questo non basti ancora. Per mantenersi fa un po' di tutto. La cameriera, la segretaria, l'impiegata in un hotel, cerca di non mollare, anche se a volte lo sconforto prende il sopravvento. Col senno di poi posso dire che ricevere dei rifiuti per me è stato fondamentale, perché mi è servito per mantenere, nonostante tutto, una sicurezza e la voglia di andare avanti. È grazie a tutti quei rifiuti se non ho mollato. Era una prova, prima con me stessa e poi con gli altri. Certo, un conto è dirlo adesso, un conto era viverlo. Una sera, dopo l'ennesima porta in faccia, Leona torna a casa. Si fa una doccia e si lascia andare sul letto. Sulla sua guancia scende una lacrima, poi un'altra. Vorrebbe singhiozzare, ma sta attenta a non farsi sentire. Sa quanto ci rimangono male i suoi quando la vedono piangere. Quando Maria, sua madre, bussa alla porta della sua stanza, la risposta è istintiva. Grazie, non ho fame. Un riflesso automatico, per tutte le volte che è stata chiamata per la cena pronta in tavola. E invece... Maria ha una sorpresa per lei. Aveva appena visto uno speciale sulle selezioni per la nuova stagione di X Factor e mi ha detto: «Senti, ma perché non ci provi?» Io non ci avevo mai pensato, devo dire la verità. In fondo forse ero un po' snob e molto tradizionalista. Pensavo che le case discografiche ascoltassero ancora le demo e continuavo a mandarne. Forse aveva ragione mia madre. Dovevo cambiare il mio modo di vedere il mondo della musica. To cry on, well, I'll always be your friend. When you need some shelter from the rain, when you need a healer for your pain. X Factor, una via di mezzo tra gara di canto e reality show, in cui le esibizioni e le sfide tra i concorrenti vanno di pari passo con una piccola dose di vicende personali, sia dei concorrenti che dei giudici. L'idea è semplice e le regole facili. Forse è per questo che funziona così bene ormai da anni in tutto il mondo. L'ispirazione viene dall'altra grande roccaforte dei talent show d'oltreoceano, American Idol, partorito dalla mente di Simon Fuller, l'uomo che stava dietro niente meno che all'invenzione delle Spice Girls, un lungimirante inglese, giudice di American Idol e creatore di America's Got Talent, che si è inventato X Factor. Chiamarlo un magnifico incontro di Leona Lewis è quasi riduttivo. È senza dubbio grazie a lui se la ragazza di Islington ce l'ha fatta. Lui si chiama Simon Cowell. Ladies and gentlemen, Simon Cowell! Ho pensato di dividere i ragazzi in tre gruppi. Band, 16-24 anni e maggiori di 25. Tre giudici gestiscono ognuno un gruppo e si procede selezione dopo selezione attraverso il televoto fino alla finale. All'inizio ho pensato, bah, forse è un'idea troppo banale, non piacerà a nessuno. E invece il pubblico mi ha dato ragione. X Factor è diventato un grande successo in tutto il mondo. Ne sono così fiero. È il mio piccolo personale capolavoro. Simon Cowell, inglese di Brighton, è una star in Gran Bretagna. Bell'uomo, dai tratti decisi, ha un carattere altrettanto definito e dice sempre quello che pensa, il che qualche volta gli ha creato qualche problemino anche all'interno dello stesso X Factor, di cui, oltre che creatore, è giudice. Non va tanto per il sottile, tutto qua, e non tutti la prendono bene. Come quando a un provinante dice senza troppe remore di avere ucciso la sua canzone preferita. Oh, Robert, I think you just killed my favorite song of all time. Killed in a good way or a bad way? I'm afraid. Well, listen, killing is never good. Killing is never good. There's never a happy killing. Io non so cantare. Suono male la chitarra e non produco album. Però ho un fiuto incredibile. So perfettamente capire cosa diventerà pop. E so che X Factor è una grande fucina di talenti. Cowell, guidato da questa predisposizione naturale, ha trovato la sua strada diventando produttore di show musicali. È la sua capacità di cogliere le esigenze e i bisogni del pubblico che lo ha reso una figura vincente. Quando ha ideato X Factor è partito da un concetto apparentemente banale, ma che in realtà nasconde una grande profondità sociologica. Siamo nel 2000. Il mondo si è appena lasciato alle spalle l'esperienza delle boy band e questo ha insegnato che non si può più solamente essere bravi a cantare. Una vera star, che si parli di pop o di rock, deve avere un appeal mediatico. Non si può più prescindere nel giudicare un talento dal valutare la sua capacità di bucare lo schermo. Il talento è solo il punto di partenza. Non basta davvero più. Bisogna essere giovani, brillanti, carismatici, glamour. Insomma, appetitosi per il mercato e interessanti per il gossip. Solo così si può sfondare nel mondo della musica oggi. Tutto questo Cowell lo trova in Leona Lewis fin dalle prime selezioni. È seduto al tavolo insieme agli altri tre giudici della terza edizione di X Factor UK. Sharon Osbourne, moglie di Ozzy, il produttore discografico Lewis Walsh e solo per le audizioni londinesi la guest star Paula Abdul, già giudice di American Idol. Leona si presenta timida, gentile e sorridente come suo solito. Capelli ricci sciolti sulle spalle, trucco appena accennato, maglioncino color pesca. Ha tutta l'aria della ragazza della porta accanto. Ero agitatissima. Mi tremavano le mani e incrociavo le dita perché non mi tremasse anche la voce. Sapevo che ero brava, ma la concorrenza era davvero spietata. Mi chiedevo se sarei stata all'altezza. I magnifici destini. I got you. I'll be alright. And when you need the place to run to, for better. Ai magnifici destini siamo nel 2006 e in Inghilterra sta per cominciare la terza edizione di X Factor UK. A inventarsi il format destinato ad avere successo in tutto il mondo è stato Simon Cowell, inglese che ora si ritrova insieme agli altri giudici del programma a dover esaminare i potenziali concorrenti. Ne passano migliaia sotto i loro occhi, ma quando una ragazza poco più che ventenne di Londra, Leona Lewis, inizia a cantare alla prima audizione, è subito chiaro a tutti che farà molta strada. Troubles, they melt like lemon drops. Way above the chimney tops, that's where you'll find me somewhere over the rainbow. Thank you. Lulu. That's what it's all about. You got the whole package, I think. Well, it wasn't perfect, because she fell off the melody at certain points, but when it was on, it was absolutely fantastic. Dopo un'esibizione del genere e con una voce che tocca le vette di Whitney Houston, è impossibile non essere convinti. Neanche a dirlo, per tutti i giudici, Leona Lewis è sì. Yes, yes, yes. And yes, four yeses. Leona nel corso delle settimane di X Factor conquista i giudici e il pubblico, in gran parte per la sua voce ma anche per il suo carattere che la rende subito speciale agli occhi di tutti. Esegue cover di brani di dive della musica come Whitney Houston, Mariah Carey, Christina Aguilera e Celine Dion e poco alla volta comincia a essere paragonata a loro per le sue potenzialità vocali e per il suo grande stile. Simon Cowell, il suo giudice, la porta dritto verso la vittoria. Le sue esibizioni, con lei così semplice ed elegante, perfetta nella performance e nel suo modo di stare sul palco, sono emozionanti, da brivido. Molte volte la platea la lascia finire per poi travolgerla con un applauso scrosciante. Altre, quelli del pubblico si alzano addirittura in piedi, increduli davanti a un talento che nello stesso X Factor non avevano mai visto. Per la prima volta Cowell sente che davvero qualcuno andrà avanti oltre al programma. Lo aveva già annunciato prima di iniziare che quell'edizione avrebbe sfornato la pop star del futuro, ma era più che altro una boutade, una frase d'effetto per chiamare spettatori. Il tempo invece gli ha dato ragione. Essere in finale è un sogno che si realizza. Se vincerò non lo so, ma mi sembra già una favola. Mia madre è la più eccitata di tutti, se ne va in giro per casa con una maglietta con scritto Leona e ha organizzato un gruppo di sostegno per fare il tifo per me. Le devo moltissimo. Senza di lei probabilmente non sarei neanche andata al provino. E invece, beh, eccomi qua. Leona ha l'X Factor, quel mix unico di talento vocale, carisma, presenza scenica e appeal mediatico che la differenzia da qualsiasi altro. Lo dimostra nelle puntate e in una strepitosa finale che le frutta la vittoria. Quando ringrazia, continua a ripetere che è un sogno, che votandola hanno trasformato la sua vita in una favola. Simon Cowell non può che dirsi orgoglioso per aver scelto la pop star del futuro, ma anche perché si sta prendendo una grande rivincita su chi ha sempre detto che il vero talento non si trova nei talent show. I would just like to say I am possibly the most proudest person in the world right now. And for anyone who says shows like this don't produce talent. A moment like this, some people wait a lifetime. For a moment like this, some people search forever. For that one special kiss. Oh, I can't believe it's happening to me. Con la vittoria X Factor, la vita di Leona Lewis cambia per sempre. Le persone mi fermavano per strada, mi dicevano che mi avevano votato, che volevano che vincessi. Ogni volta anche andare a prendere il pane diventava bellissimo. Sentivo che la gente mi voleva bene davvero. Era incredibile sentire tutti quei complimenti, tutto quel sostegno. A Moment Like This, così si intitola il singolo d'esordio, già cantato nella finale, che debutta alla prima posizione della classifica britannica e in pochissimo tempo viene eletto singolo di Natale 2006. A pubblicarlo con la sua etichetta Psycho Music è Simon Cowell. Neanche a dirlo, l'uomo che ha creduto in Leona fin dal primo provino continua ad avere fiducia nelle sue potenzialità da star internazionale. Leona è abituata alla gavetta e dopo il primo successo si rimbocca le maniche per fare ancora meglio. Ha solo 22 anni, ma alle spalle ci sono già serate a cantare nei locali, porte in faccia, rifiuti dalle case discografiche che sono abituate a liquidare in fretta i ragazzi che hanno tante speranze. Per mesi le sue giornate iniziano con il riscaldamento vocale, a cui seguono prove interminabili e registrazioni che spesso vengono scartate. È determinata, dalla sua ha una famiglia che la sostiene, il calore del pubblico non le manca mai. Il mercato poi l'ha testata con il suo primo singolo e adesso l'aspetta al varco con un album intero, il primo album. Una bella responsabilità per una che fino a ieri sognava la musica servendo ai tavoli dei pub. Siccome erano tutti lì a credere in me, era ancora più importante non deludere nessuno. I miei mi avevano trasmesso questo forte senso di responsabilità e adesso diventava ancora più importante non buttare tutto per aria. Era il mio momento. Volevo giocarmelo bene. Ci sono treni che passano una volta sola nella vita e io il mio treno non lo volevo perdere. Negli ultimi anni i talent show, nonostante il gran numero di detrattori, sono diventati delle vere fucine di talenti. La regola non vale per tutti i concorrenti, ovvio, e nemmeno per tutti i talent, ma che piaccia o meno, talenti usciti da X Factor hanno venduto milioni di dischi. Perfino il critico musicale Mario Luzzatto Fegiz si è interrogato sulla questione. C'è una lotta in corso, è una lotta generazionale, anagrafica e stilistica. Da una parte questa nouvelle vague dei talent show, dall'altra parte gli storici. Sono arrivato qui carico di odio verso quelli dei talent show e mi sono accorto che sono bravissimi. X Factor lo guardano in tantissimi. Se Cowell ha seguito gli esordi della Lewis dall'inizio come suo mentore, sono molti quelli che guardando il programma l'hanno notata. Non solo il pubblico, la gente comune, ma anche altri produttori che hanno visto immediatamente nella voce di Leona un potenziale business. Eh sì, perché diciamocelo, se un manager musicale decide di scommettere su qualcuno, è sicuramente per stima e apprezzamento, ma anche perché spera di ricavarci qualcosa. E questa è l'idea del secondo magnifico destino di Leona Lewis. Clive Davis. Beh, il mio mestiere è scoprire talenti e siccome oggi molte pop star partono dai programmi di successo è normale che io li segua con attenzione. Di solito ho uno staff con cui collaboro da tempo che mi segnala delle persone interessanti, ma con Leona non ho avuto bisogno di alcun tipo di consulenza. L'ho capito subito che sarebbe diventata qualcuno. Clive Davis, newyorkese di Brooklyn, viene da una famiglia proletaria e sa cosa vuol dire sudarsi il successo. Laureato in legge, ha cominciato a lavorare come praticante in uno studio legale alla fine degli anni 50, finché è stato folgorato dalla musica. Davis decide di entrare nel mondo della discografia, diventando in poco tempo presidente della CBS Records. Il suo intuito è evidente fin da subito. Firma con Janis Joplin, Santana, Bruce Springsteen, solo per citarne alcuni. Quando propone un contratto a Leona Lewis, lei, che lo conosce di fama, è a dir poco lusingata. Beh, dire che accetta è quasi superfluo, vista l'offerta. Quasi 10 milioni di dollari per 5 album, con la promessa di un successo mondiale. Il 22 ottobre 2007 esce Bleeding Love, il singolo che anticipa l'uscita dell'album d'esordio della cantante. Il 12 novembre 2007 viene rilanciato in Regno Unito l'album Spirit, che solo nella prima settimana vende più di 300.000 copie, per poi arrivare a quota 3 milioni e diventare il debutto di maggior successo di tutti i tempi, sia in Inghilterra che in Irlanda. Poco dopo, Bleeding Love diventa una hit mondiale e raggiunge la prima posizione in 34 paesi, tra cui Regno Unito, Italia e Stati Uniti. Si poteva immaginare, ma adesso è ufficiale. È nata una star. È successo tutto così in fretta, le selezioni, la vittoria X Factor, il primo singolo. E poi ho incontrato Clive Davis e mi ha fatto quella proposta pazzesca. Lui ha una grande esperienza e ha saputo come tirare fuori il meglio di me. There's a first time for everything. It's definitely one of the nights. I knew when I looked in his eyes that he was gonna be trouble for me. Oh, I never wanted to lie. I knew that my baby would cry. Yeah. nostri destini. So what if it hurts me? So what if I'm break down? So what if this world just throws me off the edge? My feet run out of ground. I gotta find my place. I wanna hear my sound. Don't care about all the pain in front of me, 'cause I'm just trying to be happy. Ai magnifici destini siamo nel 2007 e la londinese Leona Lewis è il fenomeno del momento. Dopo aver fatto una lunga gavetta cantando nei locali e mandando demo registrate a diverse case discografiche, la svolta arriva per lei quando decide di partecipare alle selezioni del talent show musicale famoso in tutto il mondo, X Factor versione UK. Leona è stata presa immediatamente e esibizione dopo esibizione ha convinto giudici e pubblico fino all'annunciata vittoria finale. Il resto è successo molto in fretta. Il primo singolo, balzato immediatamente in testa alla classifica inglese, e poi il primo album, Spirit, che l'ha consacrata come pop star. Ho cominciato a vivere un sogno. La favola si è trasformata in realtà. Hanno cominciato a cercarmi, ho firmato con Clive Davis un contratto per 5 dischi. Ho sempre chiesto consiglio a Simon Cowell, il mio giudice, e sempre lo farò. Lui è un punto di riferimento fondamentale per me. Mi appoggio a lui per ogni mia scelta. Nel 2008, per promuovere Spirit, Leona Lewis è in Italia, a Sanremo, e nel galà conclusivo della versione nostrana di X Factor. La dimostrazione che l'Olimpo della musica l'ha accolta a braccia aperte, senza snobismi, per la sua estrazione televisiva, ce l'ha quando la invitano a partecipare al concerto per festeggiare i 90 anni di Nelson Mandela e quando, in occasione della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Pechino, canta accompagnata da Jimmy Page, il chitarrista dei Led Zeppelin. Arriva anche il secondo album. Si intitola Echo e Leona ha come collaboratori, a parte le vecchie conoscenze Simon Cowell e Clive Davis, i pezzi grossi della discografia. Ryan Tedder, Justin Timberlake, Timbaland, Jay-Z, Will.i.am, Xenomania e molti altri. Sono tutti per lei, per la ragazza che sta vivendo la favola. Fino a pochi mesi prima erano loro i miei idoli. Ascoltavo i loro dischi nella mia camera e pensavo a quanto erano lontani dal mio piccolo mondo. E adesso erano tutti lì a dirmi: Leona, Leona, ti piace questo? Leona, ti va bene così? Incredibile, davvero incredibile. Dopo l'uscita dei miei primi 2 album, tornavo a casa dai miei molto meno, perché ero sempre in giro tra tour, promozione, ospitate nei programmi, premiazioni. E quando tornavo a casa mi comportavo come sempre, salutando quelli del quartiere, come avevo sempre fatto. E loro erano sempre strani, perché stavano parlando con una star. Ci volevano 4 chiacchiere perché capissero che io ero sempre la Leona che conoscevano. Non ero cambiata, anche se ero diventata famosa, e non sarei mai cambiata. Quando fai tanta fatica per realizzare il tuo sogno, poi non te lo dimentichi da dove vieni. Il successo della Lewis è travolgente. Ma se tutto questo sembra ancora poco, nel novembre del 2009 il suo terzo magnifico incontro del destino le dona l'immortalità. La storia è questa. Il regista James Cameron, già pluripremiato con il suo Colossal Titanic anni prima, vuole replicare con Avatar. Squadra che vince non si cambia, e così per la colonna sonora chiama ancora il compositore James Horner, lo stesso autore della hit mondiale My Heart Will Go On. Per la voce però ha in mente solo un nome, Leona Lewis. Mi avevano già fatto vedere i video dell'esibizione di Leona X Factor e avevo pensato: wow, questa ragazza è giovane ma la sua voce le farà fare molta strada. E così, quando mi sono messo a pensare alla colonna sonora, mi è venuta in mente lei. Ci siamo incontrati. Ne abbiamo parlato. Oh, a lei la canzone è piaciuta moltissimo, fin da subito. E questa è la storia. Il film Avatar è stato uno dei più grandi successi al botteghino del 2009 ed è tuttora il film che ha incassato di più nella storia del cinema. Sei Jake Sully? Vorremmo parlarti di una nuova vita su un nuovo mondo. Potrai impegnarti in qualcosa di importante e decisivo. Sono diventato un marine per il lavoro duro. Mi sono detto che potevo superare tutti i test che un uomo può superare. Io ho sempre cercato la sola cosa per cui valesse la pena lottare. Signore e signori, non siete più in Kansas. Siete su Pandora. Dovreste vedere le vostre facce. Qui c'è una popolazione indigena, i Navi. Sono molto difficili da uccidere. Grazie all'intuito di James Cameron, I See You frutta a Leona Lewis una nomination al Golden Globe. Alla fine non vince perché il premio va a The Weary Kind, tratto da Crazy Heart, ma la soddisfazione è comunque immensa. Le ragazze della mia età sognavano con Titanic. Io avevo il poster di Leonardo DiCaprio in camera, sapevo il film a memoria. E poi, quante volte ho cantato My Heart Will Go On? Mi mettevo davanti allo specchio, prendevo un oggetto a caso e lo stringevo come un microfono, e poi cantavo. Vabbè, non riesco neanche a descriverlo al momento in cui ho incontrato Cameron per la prima volta. Barbara Streisand, dopo averla sentita cantare una sua canzone, definisce Leona Lewis su Twitter una diva nel vero senso della parola. Ci credono tutti. E tutti la chiamano per averla accanto in un duetto, da Robbie Williams a Biagio Antonacci. In parallelo ai grandi concerti evento con decine di star del calibro di U2, Rod Stewart e Michael Bublé, esce il terzo album, Glass Heart. Il Sunday Times pubblica la classifica degli artisti britannici under 30 più ricchi e Leona Lewis viene messa al sesto posto, con un patrimonio che vale di più di 12 milioni 500 mila sterline. Niente male per essere attiva solo dal 2006. Non basta, la ragazza che non ha mai lasciato Londra viene eletta dai lettori londinesi del quotidiano Metro come la donna più influente che ha vissuto o lavorato a Londra nel secolo scorso, superando addirittura il primo ministro inglese Margaret Thatcher. Praticamente un sogno, o meglio, tanti sogni, diventati realtà. Come la sua autobiografia, che si intitola Dreams, il nome perfetto per una storia perfetta. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. I Magnifici Destini torna stasera alle 23, qui su Radio 24.